Cambiai discorso e gli chiesi se la principessa di Yena fosse una persona intelligente. Charlieu mi interruppe e, assumendo il tono più sprezzante che gli avessi mai sentito, «Ah, signore, voi alludete qui a un genere di nomenclatura che mi è del tutto estraneo. Esiste forse un'aristocrazia presso i tahitiani, ma confesso di non conoscerla. Tuttavia il nome che avete proferito è risuonato alle mie orecchie stranamente proprio alcuni giorni fa. Mi si chiedeva se avrei accondisceso a che mi venisse presentato il giovane duca di Guastalla. La domanda mi stupì, giacché il duca di Guastalla non ha nessun bisogno con me di presentazioni per la semplice ragione che mio cugino mi conosce da sempre. È il figlio della principessa di Parma, un giovane parente ben educato che non manca mai di venire a farmi una doverosa visita il giorno di Capodanno. Ma, assunte informazioni, saltò fuori che non si trattava del mio parente, bensì di un figlio della persona di cui vi interessate. Poiché non esiste nessuna principessa che porti questo nome, ho supposto che si trattasse di una mendicante che dormiva sotto il ponte di Yena e aveva assunto pittorescamente il titolo di principessa di Yena, così come si dice la pantera delle Batignolles o il re dell'acciaio. Ma che? Si trattava di una ricca signora della quale avevo ammirato a una mostra dei mobili bellissimi, che rispetto al nome della proprietaria hanno inoltre il vantaggio di non essere falsi. Quanto al preteso duca di Guastalla, pensai che dovesse essere l'agente di cambio del mio segretario. Col denaro ci si procura un mucchio di cose, e invece no. L'imperatore, sembra, si è divertito a regalare a quella gente un titolo assolutamente indisponibile. Potrebbe essere una prova di potenza, o di ignoranza, o di malizia. Secondo me, è più che altro un brutto scherzo giocato a questi usurpatori loro malgrado. Ma basta, non posso fornirvi chiarimenti in proposito. La mia competenza si limita al Faubourg Saint-Germain, dove, fra i courvoisier e i gagliardon, potrete scoprire, se riuscirete a trovare chi vi introduca, certi vecchi personaggi che sembrano uscire direttamente da Balzac e che vi divertiranno. Naturalmente, tutto ciò non ha nulla a che vedere con il prestigio della principessa di Guermantes, la cui dimora, senza il mio apriti sesamo, rimane peraltro inaccessibile. È davvero bellissimo, signore, il palazzo della principessa di Guermantes. Oh no, non è bellissimo, e quanto vi sia di più bello, dopo la principessa, ben inteso. La principessa di Guermantes è superiore alla duchessa di Guermantes? Oh, ma non c'è confronto! Si osservi come, se appena hanno un briciolo d'immaginazione, i personaggi del gran mondo incoronino o detronizzino, a seconda delle simpatie o degli attriti, coloro la cui posizione appare più sicura e meglio consolidata. La duchessa di Guermantes... Forse, non chiamandola Oriane, voleva mettere maggiore distanza fra lei e me? È deliziosa, di gran lunga superiore a quanto abbiate potuto intuire, ma incommensurabile con sua cugina, che esattamente come la gente delle Halles può immaginarsi la principessa di Metternich, se non che la Metternich era convinta di aver lanciato Wagner perché conosceva Victor Morel. La principessa di Guermantes, o per meglio dire sua madre, ha conosciuto quello vero. E questo è prestigio, senza parlare dell'incredibile bellezza di quella donna. E poi basterebbero i giardini di Esther. Non è possibile visitarli? No, bisognerebbe essere invitati. E non invitano mai nessuno, a meno che non intervenga io. Ma subito, ritirando dopo averla gettata... l'esca di quell'offerta, mi tese la mano perché eravamo arrivati a casa mia. «La mia parte finisce qui, signore. Non mi resta che aggiungere poche parole. Un altro, forse, vi offrirà un giorno, come ho fatto io, la sua simpatia. Che l'esempio attuale vi sia d'insegnamento. Non trascuratelo. Una simpatia è sempre preziosa. Ciò che non si può fare da soli nella vita, perché ci sono cose che non si possono chiedere, né fare, né volere, né imparare per proprio conto, si può fare in più d'uno e senza bisogno d'essere in 13, come nel romanzo di Balzac, o in 4, come nei 3 moschettieri. Addio! Doveva essere stanco e aver rinunciato all'idea di andare a vedere il chiaro di luna, perché volle che dicessi al cocchiere di riportarlo a casa. Subito dopo fece un movimento brusco, come se avesse cambiato idea. Ma avevo già trasmesso l'ordine e, per non attardarmi oltre, andai a suonare al mio portone senza che mi fossero più passati per la mente i racconti sull'imperatore di Germania e sul generale Botha che avrei dovuto riferire al signor di Charlieu. Racconti che mi erano parsi, poche ore prima, così impellenti, ma che la sua inattesa, folgorante accoglienza aveva fatto svanire chissà dove. Rientrando, vidi sul mio scrittoio una lettera che il giovane lacchè di Françoise aveva scritta a un suo amico e dimenticata lì. In quel periodo in cui mia madre era via, la sua indiscrezione non conosceva limiti. Io, però, ne commisi una anche peggiore, leggendo quella lettera che, senza busta e spiegata in tutta la sua larghezza, sembrava, e la mia sola giustificazione, offrirsi alla mia curiosità. «Caro amico e cugino, spero che la salute va sempre bene e che è così per tutta la famigliuola, specialmente per il mio giovane figlioccio Joseph, di cui non ho ancora il piacere di conoscere, ma di cui preferisco a tutti voi, perché essendo il mio figlioccio, le reliquie del cuore hanno la loro polvere, sui loro sacri resti non posiamo la mano. Del resto, caro amico e cugino, chi ti dice che domani tu e la tua cara moglie, mia cugina Marie, non sarete precipitati tutti e due nel fondo del mare, come il marinaio appeso lassù all'albero maestro, perché questa vita non è che una valle oscura. Caro amico, ti devo dire che la mia principale occupazione, con tuo stupore, ne sono certo, è adesso la poesia che amo con delizia, perché bisogna pur passare il tempo. Così, caro amico, non essere troppo sorpreso se non sono ancora risposto alla tua ultima lettera, se non giunge il perdono, affidati all'oblio. Come tu lo sai, la madre della signora, aspirata in sofferenze inesprimibili, che l'hanno piuttosto stancata perché ha visto persino 3 medici. Il giorno delle sue esequie fu un bel giorno perché tutte le amicizie del signore erano venute in folla unitamente a parecchi ministri. Ci sono volute più di 2 ore per andare al cimitero, ciò che vi farà spalancare gli occhi nel vostro villaggio, dove non sarà sicuramente l'uguale per la vecchia Michou. E dunque la mia vita più non sarà che un unico singulto. Mi diverto moltissimo con la motocicletta di cui ho imparato ultimamente. Che direste, cari amici, se arrivassi così a tutta velocità fino all'Esecor? Ma su ciò non mi è dato più tacere, l'ebbrezza del dolore vince la sua ragione. Frequento la duchessa di Guermantes, persone che tu non hai mai sentito neanche il nome nelle nostre ignoranti contrade. Così è con piacere che vi invierò i libri di Racine, di Victor Hugo, di Pagine scelte di Chénodoy, di Alfred de Musset, perché vorrei guarire il paese che mi diede i natali dall'ignoranza che conduce fatalisticamente al delitto. Non vedo più niente da dirti e ti invio, come un pellicano stanco d'un lungo viaggio, i miei cordiali saluti unitamente a tua moglie e al mio figlioccio e a tua sorella Rose, che si possa non dire di lei: «E rosa ella ha vissuto quel che vive una rosa», come ha detto Victor Hugo, il sonetto d'Arbert, Alfred de Musset, tutti grandi geni che per questa ragione hanno fatto morire sulle fiamme del rogo come Giovanna d'Arco. Appresto la tua prossima missiva, ricevi i miei baci come quelli di un fratello, Périgot Joseph. Siamo attratti da ogni vita che rappresenti per noi qualcosa di ignoto, da un'ultima illusione da distruggere. Ciò nonostante, le frasi misteriose con cui il signor di Charlieu mi aveva indotto a immaginare la principessa di Guermantes come un essere straordinario e diverso da quanto conoscevo, non bastano a spiegare la mia stupefazione, cui succedette il timore d'essere vittima d'uno scherzo malvagio architettato da qualcuno che volesse farmi mettere alla porta d'una dimora dopo avermi spinto ad entrarci senza invito, quando, all'incirca 2 mesi dopo il pranzo dalla duchessa e mentre lei si trovava a Cannes, aperta una busta, il cui aspetto non mi aveva messo sull'avviso di nulla d'eccezionale, lessi queste parole stampate su un cartoncino. «La principessa di Guermantes, nata duchessa di Baviera, sarà in casa il...» Evidentemente, essere invitato in casa della principessa di Guermantes non era, dal punto di vista mondano, più difficile che pranzare dalla duchessa, e le mie deboli cognizioni araldiche mi suggerivano che il titolo di principe non è superiore a quello di duca. Mi dicevo, inoltre, che l'intelligenza di una donna del gran mondo non poteva essere d'essenza tanto eterogenea rispetto a quella delle sue congeneri, come pretendeva Charlieu. Ma la mia immaginazione, simile a Elstir, quando rendeva un effetto di prospettiva senza tener conto delle sue eventuali nozioni di fisica, mi dipingeva non ciò che sapevo, bensì ciò che vedeva. Ciò che vedeva, vale a dire ciò che il nome le faceva vedere. Ora, anche quando non conoscevo ancora la duchessa, il nome Guermantes, preceduto dal titolo di principessa, come una nota o un colore o una quantità profondamente modificata dai valori circostanti, dal segno matematico o estetico che li distingue, mi aveva sempre evocato qualcosa di affatto diverso. Con quel titolo lo si trova, soprattutto nelle memorie del tempo di Luigi XIII e di Luigi XIV, ed io mi figuravo il palazzo della principessa di Guermantes più o meno come se a frequentarlo fossero la duchessa di Longueville o il Gran Condé, la cui presenza rendeva ben poco verosimile che io vi potessi mai penetrare. Molte, fra le cose che mi aveva dette il signor di Charlieu, avevano dato una vigorosa sferzata alla mia immaginazione e, facendole dimenticare la gravità della delusione subita in casa della duchessa di Guermantes, succede con i nomi delle persone come con i nomi dei paesi, l'avevano indirizzata verso la cugina di Oriane. Del resto, se Charlieu mi ingannò per qualche tempo circa il valore e la varietà immaginari dei personaggi del gran mondo, era perché si ingannava lui stesso. E questo, forse, perché non faceva nulla, non scriveva, non dipingeva e nemmeno leggeva in un modo serio e approfondito. Ma se, superiore di parecchi gradi a tali personaggi, era da loro e dal loro spettacolo che traeva materia per la sua conversazione, non per questo essi lo capivano. Parlando d'artista, poteva tutt'al più far emergere il loro fascino fallace, ma farlo emergere solo per gli artisti, nei cui confronti avrebbe potuto adempiere alla sua funzione che svolge la renna nei confronti degli eschimesi, per i quali il prezioso animale strappa dalle rocce desertiche lichemi e muschi che essi non saprebbero né scoprire né utilizzare, ma che, una volta digeriti dalla renna, diventano per gli abitanti dell'estremo nord un alimento assimilabile. Aggiungerò che le descrizioni del gran mondo fatte da Charlieu erano piene di vita grazie alla miscela dei suoi odi feroci e delle sue devote simpatie. I primi, rivolti soprattutto contro i giovani, l'adorazione suscitata principalmente da certe donne. Se fra queste la principessa di Guermantes era collocata da Charlieu sul trono più elevato, le sue misteriose parole sull'inaccessibile palazzo di Aladino abitato da sua cugina non bastarono certo a spiegare la mia stupefazione.